Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, ci sono io stasera, dovrebbe esserci Marco, anzi Marco è là presente. Buonasera a tutti, buonasera agli amici di Rock Wave, Rock Wave del venerdì. Di solito i concerti li facciamo il mercoledì, la mia voce non è proprio da concerto, ma insomma, bene o male. Però stasera una cosa molto interessante, importante, i ragazzi, i Nokis, che sono venuti da Parma, quindi hanno fatto un bel viaggetto, con loro passeremo un'ora e mezza di musica rock. Un rock un po' particolare, un rock a loro denominazione di origine controllata. Buonasera, state bene? Sì, ciao, sì, ciao. Sì, benissimo, ciao. Benissimo. Avete fatto buon viaggio da Parma fino a qua? Sì, sì, è andato tutto bene. A parte che poi in realtà io sono venuto da Verona. Ah, Parma, quindi, era un po' più vicino a te, sì. Esattamente. Sì, sì, sì. Che aria musicale si respira a Parma in questo momento? Cominciamo con una domanda subito difficile. Sì, subito con quelle difficili. Quindi te la passo pure. Ma diciamo che sì, c'è una realtà che spesso non emerge, ma che comunque è composta di tanti ragazzi che suonano e che cercano spazio, come in tante altre città, insomma, penso in Italia, ma anche in tante altre città del mondo, insomma. Quindi cercano spazio, cercano idee, spazio. Cercano spazio. Ma le idee io credo proprio ci sono. Che ci sia. Sì, cercano appunto spazio per farle sentire queste idee. Benissimo, e voi le avete fatte sentire? Insomma, noi facciamo, come dire, il nostro parco lavoro. Certamente, è un progetto interessante il vostro, perché non è solamente far sentire, anche sviluppare, creare, avete creato tutto quanto voi praticamente in questo progetto. Sì, insomma, siamo quattro cervelli producer. Quasi pensanti e producer, sì, insomma. Cosa ne dici Marco di questa produzione? Totalmente autonomo, hanno creato un po' tutto loro praticamente. Beh, si sente che devo fare anche i complimenti perché il disco è molto bello. Grazie, grazie mille. Non so, o sei fortunato tu, Maurizio. No, è fortunato il nostro direttore artistico, però... che salutiamo, che è Alberto Pisco, che li ha scovati, se si può dire così. Dopo verrà, fra pochi minuti arriva, e vi ha sentiti, via Facebook, vi ha invitati. Grazie anche all'Antonella, mi certo, penso, certo. La vostra manager, sì, che ha portato. Ascoltando. Esattamente, la salutiamo, che ha portato il grande musicista di Rockets, che è venuto qua, Gerard. Esatto. E grazie a lei. E siete arrivati qua, quindi una cosa molto interessante, molto importante. Dobbiamo parlare di questo nuovo disco di esordio. È un disco di esordio, avete fatto altre cose precedentemente? Ma in passato abbiamo fatto delle altre incisioni, era un genere però completamente diverso, quindi diventa addirittura fuorviante parlarne, ecco. Di sicuro comunque noi siamo in giro da un po' di tempo, anche se abbiamo cominciato a cercare di fare un po' più sul serio con questo disco, diciamo. Appunto venivamo da esperienze diverse, di genere completamente diverso, abbiamo deciso di cercare un produttore artistico nuovo e abbiamo provato ad ascoltare un po' di dischi insieme, trovandoci d'accordo solo su un disco, perché poi la nostra è una democrazia disfunzionale. Cioè? Cioè non proviamo a far sì che tutto sia, tutte le decisioni siano prese in maniera democratica, e alla fine ci riusciamo, così, anche però con difficoltà, sì, sì. E quindi ecco, questi ascolti sono stati prolungati e alla fine ecco abbiamo trovato questo disco prodotto da un produttore artistico svedese, Stefan Bowman. Quindi siete volati in Svezia praticamente, a sì. Stoccolma. Prima l'abbiamo contattato e fortunatamente ci ha risposto. Ecco l'importante. Esatto. Poi l'abbiamo fatto venire in Italia per conoscerci, perché trovare un produttore artistico è un po' come trovare una fidanzata in qualche maniera, cioè se ti devi piacere sotto tanti punti di vista. No, anche perché ci piace comunque lavorare con persone con cui ci capiamo a 360 gradi. E durante quell'incontro qua in Italia abbiamo messo giù il piano per questo disco, che poi è stato registrato tra Italia e Stoccolma. Perfetto, una questione molto importante, cioè siete già dal primo disco di esordio siete volati all'estero, è una cosa molto positiva, già avete cominciato bene, no? Cosa ma dici? sì, ci piace pensare di sì. No, anche a noi piace pensare di sì. Innanzitutto noi abbiamo detto il titolo del disco. L'album si intitola The Regency. E che ha una copertina molto bella, molto dark, molto nera, tutta nera. E senza nome della band. E questo nome è una cosa che non vi ho detto, adesso vi dico in diretta. I poveri DJ, io e Marco, abbiamo difficoltà alle tracce. Non avete messo il numero delle tracce dietro, come mai? Il numero delle tracce, a dir la verità, l'avremmo anche potuto mettere. E probabilmente sì, magari nel secondo disco, ecco, lo appunto, metteremo. Cioè, non credo ci sia ricerca in quello. Andrà meglio il prossimo anno. Ecco, no, mica, è così una moto scherzosa per dire, ma qualche volta i DJ, insomma, noi ragazzi che amiamo fare questo genere qua, presentare musica live, abbiamo delle difficoltà perché non ci sono le tracce. Immagino il problema. Sì. Il problema è quello. Il problema di età. Sì, esatto, di età mia soprattutto. Hai ragione, Marco. Giustamente ha ribadito com'è il concetto qua dentro. Però, dimmi, se posso aggiungere una cosa, ecco, al di là delle tracce, dei numeri delle tracce, la scelta di non mettere il nome della band sulla copertina è stata abbastanza invece voluta e anche sostenuta contro chiunque che ci sconsigliava, no, perché... Però noi alla fine abbiamo fatto un ragionamento estetico prima di tutto, ci piaceva molto la copertina che ci avevano proposto e non ci andava di rovinarla con il nome della band. E in ogni caso, voglio dire, No Keys, qualche persona forse può dire qualcosa, ma i più no. Per cui abbiamo deciso di puntare semmai su un effetto di curiosità, incuriosire le persone, che magari vedendo una bella copertina possono decidere di prendere il disco, di girarlo e di vedere chi l'ha fatto. Beh, sulle prime anche i graphic designer che hanno curato la copertina. Dobbiamo dirlo questo. Esatto, che sono peraltro di Copenaghen. Quindi sono danesi. Esatto. Anche loro avevano dei dubbi all'inizio sulla cosa. Poi alla fine il fenomeno li ha convinti. Addirittura è stato proprio un caso fortuito. Un amico che insegna all'università di design di Copenaghen ha detto: devo fare un corso sul packaging e mi piacerebbe fare qualcosa di provocatorio, qualcosa di strano. E mi ha detto: vabbè, la nostra idea è questa. È stata subito accolta gli effetti. Sì, è una cosa molto bella, cioè il libretto è fatto benissimo, curato alla perfezione, vero Marco? Un certo fascino, il fascino del dark, ma il fascino ce l'ha. No, anche perché io sinceramente preferisco i booklet fatti in cartoncino, così che non, anche se ho notato che ultimamente ci sono molte band che riempiono il CD con dei librettini, un po' ti fanno tornare in mente un po' i dischi, l'album sì, era un po' più... Sì. Più bello prenderlo il in mano. Il feticcio della carta, che è sempre buono. C'è ancora qualcuno che mette solamente magari un pezzettino di carta col nome, però insomma va alla sua importanza. Sicuramente in fase di acquisto, per chi ancora compra i CD, certo, vedere la grafica, la copertina, invoglia anche poi a prenderlo in mano. E a, sì, la grafica secondo noi è molto, molto importante. Tutto sommato è come ti presenti, per cui... Sì, nel nostro caso peraltro penso che rappresenti proprio il tipo di clima che vogliamo trasmettere. Noi siamo molto o bianco o nero e non ci si gira, non ci sono mezzi termini, no, vero, chiaramente. Tant'è che il prossimo album penso che sarà tutto bianco, sì, ecco, le indiscrezioni si come, dice come i primi due dischi di Joy Division. Il primo era nero, il secondo era bianco. Esatto, giusto. Giusto per citare una band che assolutamente non ci tiene. No, nessun riferimento, esatto, no, puramente casuale. Ok, cosa dite? Apriamo la finestra come sempre facciamo e sentiamo il primo pezzo dell'album che avete scelto, la traccia che avete scelto. Ve la ricordate il titolo? Rock and Roll Pistolero. Perfetto, ne parliamo dopo, la spieghiamo dopo, ok? Perfetto. But don't get fooled, I'll take the pain. I'll be ice cold like Michael Caine. I wanna. I'm a rock and roll pistolero, name it could be sanguinero. I'm a lover, amore vero, name it occhi il mondo intero. I'm a rock and roll pistolero, name it could be sanguinero. I'm a lover, amore vero. Ok, mi fai proprio parlare in tutti i costi. Ok, benissimo. Il primo, allora abbiamo scelto Rock and Roll Pistolero, mi pare. Pistolero, sì. Ecco, ieri nella recensione abbiamo scritto io e Alberto che una sintesi tra i Sisters of Mercy, un gruppo che noi vecchi, Marco compreso, abbiamo sempre amato, vero Marco? Sì, tra l'altro proprio recentemente ho preso una raccolta su un CD, c'erano i loro primi 5 dischi, cioè 5 dischi, poi in realtà loro ne hanno fatti quanti, se non mi sembra 2 o 3. Sì, esattamente. Quindi non ho un gruppo... un po' storico amatissimo. Io ho seguito anche il Mission, ma per altri motivi. Esattamente. E allora siamo vecchi anche noi. No, voi siete giovani rispetto a noi, chiaramente. Una sintesi quindi tra i Sisters of Mercy e Depeche Mode. I ragazzi, mentre andavano il pezzo, mi hanno detto che l'avete scritto ad Atene dopo una certa vicenza del giorno prima. Esatto. Una vicenda così etilica, possiamo dire così. Possiamo dire così, sì. Com'è andata quel giorno ad Atene? Questo come l'avete creato questo pezzo? Ma questo... in realtà non è stato proprio creato, è venuto fuori, adesso lo so che sembra una di quelle cose dette da grande artista, però in effetti questo è uno dei classici esempi di pezzi dove soprattutto la parte del ritornello, quella è venuta fuori, semplicemente sgomitava per venire fuori. È venuta fuori, è stato il primo capitolo, diciamo, di tutto l'album, è stato... capitolo 1, Rock and Roll Pistolero, e da lì poi dopo è stato... fin troppo semplice, se vogliamo, inserirsi in quel solco e poi dopo far venire fuori tutto il resto in maniera molto naturale. Sì, è nata guardandoci proprio in faccia, perché dopo questo live pesante comunque sia e tutti gli annessi e connessi su cui glissiamo e il dopo live e il dopo live, vedersi svegli presto la mattina perché dovevamo andare all'aeroporto, ha detto ok, rock and roll sì, ma c'è qualcosa di più, e negli occhi c'era questa sprezzatura, no? Proprio da pistolero, eravamo comunque sia freddi, e da lì è nato poi il clima di The Regency. Questo è stato il clima dell'album, è così, sì. E il colpo allo stomaco ci sta bene, allora, assolutamente, assolutamente. Ma l'idea era anche appunto di partire con un personaggio che è più grosso, più grande che i personaggi della vita reale in qualche, in qualche modo, cioè un inizio anche arrogante, però insomma tutto questo continuo a dire no, ma non devo, cioè devo minimizzare quello che faccio, e invece per una volta abbiamo detto perché devo minimizzarlo, proviamo ad amplificarlo, chi se ne frega, cioè, esageriamo, poi, esattamente, un'esagerazione, anche perché dopo una sbornia, no, dopo un concerto, una sbornia, dopo aver attraversato Atene alle 3 del mattino a piedi, rock and roll pistolero ci stava, decisamente. E no? Proprio va ad hoc, sì. Assolutamente ad hoc. Ci presentiamo, non ci siamo presentati prima, cioè nome e nomignolo e strumento chiaramente. Bonzo, che chiaramente suona la batteria. Esattamente. Io sono il Gutto, bassista. Benissimo. Io sono Rico, canto. E io sono Lou, chitarra. Quindi questa è la formazione di questa band di Parma. Disco molto bello, molto interessante, molto profondo in alcuni momenti, posso dire questo? Siete d'accordo? Diciamo che è un disco che a livello emozionale, anche di profondità, rappresenta molto, cioè ci abbiamo messo molto del nostro, è molto molto personale come cosa, quindi insomma L'avete sentito? Molto sentito, moltissimo. E l'avete sentito in tutti i sensi, perché l'etichetta è vostra, il progetto è vostro. Parliamo un momento di questo progetto nato a parallelamente al disco, praticamente. L'etichetta è nata originariamente da noi e da quella che allora era solamente la nostra editrice, Sara Ferrari Edizioni Musicali. Abbiamo unito le forze creando un'etichetta che adesso si chiama The Lads Productions e che era nata solo per supportare la band No Keys. Poi però lavorando sulla band chiaramente abbiamo in qualche modo anche allargato il nostro campo d'azione, e quindi adesso lavoriamo anche con pochissime altre band, perché non avendo delle forze particolarmente le possibilità, ecco, né economiche né insomma di personale, di persone che lavorano, preferiamo concentrarci su pochissimi progetti sui quali crediamo e cercando di spingere quella che è l'idea che fonda anche No Keys, e cioè avere un'etichetta non vuol dire essere arrivati, ma vuol dire poter cominciare, cioè vuol dire essere messi nelle condizioni di lavorare ancora di più di quello che si è fatto fino a quel momento. Cioè il fatto di avere un'etichetta ti permette di dire esisto, no? Ho un po' più di credibilità sulla carta, però questa credibilità poi la deve supportare, la supportano No Keys lavorando, cercando altre persone che la pensino nello stesso modo. Tu prima hai citato Antonella, che è la nostra promoter, Stefan Bowman il nostro produttore, Sara Ferrari stessa ovviamente, e tanti altri che lavorano con noi. Noi cerchiamo di far passare questo messaggio anche alle band che collaborano con la nostra etichetta, cioè adesso dovete cominciare a lavorare di più, adesso è il momento di tirare fuori davvero anche il carattere, perché non c'è spazio per chi vuole essere solo un artista, purtroppo o per fortuna, nel senso che la situazione estremamente difficoltosa e di crisi del mercato musicale ha scremato anche un sacco di gruppi, di persone, di cantanti che avevano solo delle pretese. Sì, è quasi uno statuto per noi, effettivamente, se vuoi fare la differenza devi cominciare a farla, non aspettare di trovarti. Sì, non aspettare che la facciano quegli altri. Esatto. Cioè. Quindi devi lavorare assolutamente. Cosa dici, Marco, di questo concetto validissimo e proprio chiaro, chiarissimo? No, mi sembra un concetto abbastanza importante, perché effettivamente invece che aspettarsi qualcosa dal di fuori o dal mercato, si prova a cambiare dal dentro, quindi provano loro stessi a fare qualcosa di diverso. Quindi secondo me è la mossa vincente, perché considerando proprio anche l'argomento della crisi di mercato che colpisce non solo il lavoro ma colpisce sicuramente anche, ha colpito anche la musica, penso che sia l'unica possibilità al giorno d'oggi per poter mettersi in mostra. Infatti, guarda, rubo da chi la sapeva più lunga e direi: non chiedetevi che cosa possa fare la vostra etichetta per voi, ma chiedetevi cosa voi potete fare per la vostra etichetta. Senza citazione, una citazione NDR, nota di redazione, sono molto sicuro. Sì, era ok, allora facciamo così. Mettiamo un altro pezzo da disco e poi cominciamo a suonare. La traccia che avete scelto da disco ancora qual è? Ve lo ricordate? Credo Slow, la numero 5. Ah, esatto. Ok. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Falling down, I have sinned. Blu Radio Veneto Rock. Marco, questo finale che ti penetra, questa chitarra lancinante, io uso psichedelica, lisergica, mi piace così. Torniamo sempre al solito discorso che poi uno può portare tutti i ricordi e i riferimenti. Io, a me sono venute in mente altre cose, ma non vorrei dire. No, puoi dire, assolutamente. No, siamo però questo colpo di batteria così mi ricordava un po' un pezzo degli Ultravox. Wow. Diciamo dall'album My Name is da Regine Eden, c'era un pezzo, sì. adesso non ricordo bene il titolo, però mi ricordano quelle sonorità là. Grande, ancora sì. Quando sì, poco prima che Mitch Ewer perdesse un attimo la Trevisione, esatto. E, a proposito dello scrivere il numero delle tracce dietro i CD, ecco, era sì il numero 5, però si intitolava Another Step. Autogol. Ma può capitare, al di là delle tracce, tu avevi detto mentre il microfono era spento che era stata una traccia sofferta, 2 minuti o poco più, quasi 3 minuti scarsi, una traccia molto sofferta, molto, molto sentita, un grande pathos interno. Sì, beh, Slow, Another Step. No, perché anche Slow è una canzone abbastanza anche Slow è molto bella anche quella, sì. No, Another Step è nata peraltro durante le sessioni di registrazione, era un pezzo che non era supposto di entrare nel disco, esatto, un imprevisto. E è un pezzo notturno di una notte particolare, insomma, non è un momento preciso, è più che altro un atteggiamento, una serie di forme di rapporto con la vita, con tutti i suoi aspetti. E è stato bello inserirlo nell'album, è stata una cosa inattesa, veramente. E poi soprattutto ci ricordiamo le chitarre di cui parlavi, le chitarre struggenti, erano veramente molto alte, vero ragazzi? In che senso erano veramente molto alte? Volume. Sì, è stato una bellissima sessione. A proposito, quando siete stati in sala di registrazione, chi vi ha sistemato il discorso degli arrangiamenti praticamente? Sei stato te? Gli arrangiamenti li abbiamo fatti insieme a Stefano Bowman. Esattamente. Abbiamo proprio lavorato insieme al progetto, poi abbiamo avuto la fortuna di poter registrare nel nostro studio a San Secondo Parmense, che ci ha consentito anche di prendercela comoda, un po' comoda quando volevamo. E anche questo pezzo, e soprattutto questo pezzo, è nato di notte, è stato registrato di notte. E siccome lo studio è in mezzo alla campagna sconfinata della bassa parmense, abbiamo potuto tenere dei volumi altissimi, smodati, veramente inverecondi. No, erano veramente notevoli. E poi appunto con i suggerimenti preziosissimi di Stefan siamo riusciti a fare di tutto. Quindi vi ha dato una mano anche dal punto di vista di accrescimento, soprattutto. Ha visto quello che era solo accennato nelle nostre preproduzioni, l'ha tirato fuori con una forza e con una chiarezza. Era così a fuoco che noi lavorando con lui abbiamo solo potuto costruire qualcosa che soddisfacesse tutti in maniera incredibile. Infatti diciamo sempre con ironia che lui è il quinto No Kiss in realtà. Vero ragazzi? Assolutamente. Tra l'altro ci sta ascoltando in streaming dalla Svezia. Bene. No, ma volevo fare una domanda a proposito del produttore, visto che è svedese e visto che la Svezia diciamo che da qualche anno a questa parte sta proponendo delle band. Lui da che mondo proviene? Rispetto ai gruppi della Svezia, cioè io posso citare gli Ives ad esempio, che fa parte di qualche corrente, ha prodotto qualche band. Sì, lui ha lavorato con tantissimi artisti scandinavi molto importanti. Lui ha cominciato lavorando ai Polar Studios che c'erano a Stoccolma, che poi hanno chiuso, credo, ormai svariati anni fa. E poi ha lavorato. Lui è il produttore dei Kent, che in questo momento sono una delle band più grosse della scena svedese. Con i quali possiede anche lo studio di registrazione nel quale abbiamo fatto parte del nostro disco. Ha lavorato con gli Helicopters e poi comunque anche con quindi diciamo che lui è un produttore di matrice rock elettronico, però ha lavorato con Robin, che adesso sta esplodendo anche in Italia, quindi insomma anche cose più pop, però diciamo che la sua origine è quella più rock elettronico. Ok. E infatti si è divertito molto con noi perché sì. Si è trattato fuori di tirare fuori i suonini di tastiera o quelle cose lì. Dava nozze praticamente. Ha aperto il libro e non ce n'era più per nessuno. Ma una cosa che volevo chiedere, com'è l'atmosfera in Svezia per registrare? Ci sono difficoltà? Vabbè, vi ha chiamato lui però ci sono delle preclusioni, non esistono. No. È meraviglioso, è un'atmosfera così rilassante, così costruttiva, cioè non è pigra come atmosfera. Sei meno 16 di quando abbiamo registrato non costituiscono problema, meno non 16. Ce ne sono. meno sì, 16. È il tramonto alle 2 del pomeriggio, non si può, però sì, esatto. A parte quello, insomma, tutto il resto. Beh, ha fatto anche quello il suo dovere. Sì, aveva il suo perché. Era parte dell'atmosfera. Cioè, che quindi, insomma, per quanto riguarda soprattutto il nostro disco, diciamo che ha aiutato tantissimo a entrare ancora di più nel clima che volevamo rendere. Anche perché a volte per completare un processo di cambio, e noi volevamo fortemente questo cambio rispetto a quello che avevamo fatto prima, un movimento, un cambiamento anche geografico aiuta sul serio, e poi magari riesci a restare contaminato dal posto nuovo in cui vai, volente o nolente. Quindi il cambio diventa più concreto e anche più percepibile da te stesso. Insomma, è molto più difficile cambiare restando chiusi in se stessi, chiusi nello stesso posto. È possibile, senz'altro, però la scommessa era anche quella. Sono perfettamente d'accordo, e noi sicuramente siamo contaminati dalla vostra musica, perché adesso cominciamo a suonare, vero Marco? Direi. È proprio ideale, il momento giusto, diciamo scaldati nel momento giusto. Tra la presente qua fa un caldo un certo tipo, ci si scalda davvero. Cosa ci fate sentire come inizio per il live? Beh, pensavamo al primo singolo dell'album di The Region C, che è la traccia numero 2, questa volta non sbagliamo, che si intitola Eyes of Riot. Perfetto. In versione diversa ovviamente dall'originale, che è forse il pezzo più ritmato del disco. Abbiamo scelto una versione più acustica. Sì, dobbiamo dire che è una versione originale fatta apposta per Rock Wave, un grande onore. È un grande onore per lui. Esatto. Grande onore. Ok, Marco, io sono stato soddisfattissimo, hanno completamente rivoltato tutto, nel senso positivo del termine, veramente molto bravi, proprio una versione totalmente, no, non diversa nel senso di idea, di concetto, però fatta in versione acustica, con molta grinta, bella, veramente bella, grazie, grazie, invitante, grazie, emozionante, grazie. Beh, complimenti, grazie, veramente, grazie. Avete fatto un'ottima cosa. Ok, ho letto delle recensioni in cui qualcuno non vi paragonava, si avvicinava, parlava di Garbo come vostro nome, non nome tutelare, punto di riferimento. Io posso essere d'accordo. Cosa dici? Beh, di sicuro è un paragone lusinghiero, perché Garbo è uno degli artisti della scena new wave storica, e poi non solo, perché lavora ancora e come, certo, più importanti e sicuramente anche più talentuosi. Quindi, come sempre, quando ci paragonano a qualcuno che è bravo, noi siamo contenti. Ecco, cioè, è abbastanza inutile negare le evidenze ma non è, cioè è un discorso solamente di input, certo, di punto di riferimento. No, infatti è un discorso di territorio comune. Esatto, hai detto la cosa giusta, territorio comune. Certo, no, guarda, sono d'accordissimo. Ci è capitato di sentire Garbo un paio di volte come nome tutelare o comunque come ispirazione, i Diaframma per Diaframma stare in Italia. Di Fiumani. Esattamente. Grande Fiumani. Insomma, tanto di cappello, finché i paragoni, ecco, sono quelli, ben vengano. Non abbiamo paura di ammettere le nostre ispirazioni e anche le nostre preferenze musicali. Quel discorso che hai fatto all'inizio, cioè non all'inizio, fra qualche minuto fa, sul discorso dell'etichetta, del lavorare, di creare, si avvicina molto al discorso che ha sempre fatto Fiumani e Diaframma. Assolutamente, lui ha sempre fatto un discorso totalmente slegato da qualsiasi palcoscenico con tutte le luci, cioè. Ma secondo me, perché la new wave è un genere musicale adatto a chi ha un carattere, forse a chi ha brutto carattere, ecco, sì. e a chi crede molto in quello che fa, anche contro l'evidenza. E quindi si scontra spesso con sconfitte, con difficoltà, e però continua ad andare avanti. E anzi, le sconfitte in qualche maniera diventano uno stimolo a continuare. Ecco, forse potrebbe essere questo il... Esatto, io non vi auguro nessuna sconfitta, no, chiaramente. Beh, sono, perché cioè... Fiumani ha avuto sconfitte in quel senso là, cioè è andato avanti, ha gettato e ha ricominciato, ha ricostruito continuamente, questo voglio. Voi chiaramente continuate, sconfitte lasciamo da parte, però è giusto riprendere, allargare, creare, lavorare per fare un progetto. Sì, e mettersi in gioco continuamente. Esattamente, mettersi in gioco continuamente. No, perché questo album, The Regency, è nato dal mettersi in gioco, mettere sul tavolo quelle che erano le nostre situazioni, le nostre storie, senza pudori, senza falsi pudori, senza reticenze, che alla fine non servono solo a confondere le idee. Noi siamo testardi, abbiamo brutto carattere, abbiamo voglia di andare esattamente dove vogliamo andare, e quindi fino ad ora abbiamo fatto così e i risultati li abbiamo raccolti, insomma. Certamente, prima avevate parlato del discorso come fate un pezzo, appena accennato, lo potete sviluppare? Come si crea un pezzo vostro? Come nasce? Quante discussioni dialettiche ci sono per approdare un disco, a un pezzo? Brutto momento. È un brutto momento. Sì. Non c'è niente di gradevole nel processo, no, creativo. No, siamo New Wave anche in quello. Cioè, no, perché c'è da dire che, vabbè, a parte il fatto che nessuno dei quattro è buono di star zitto, quindi cioè, nessuno proprio rinuncia ad esprimere il proprio parere, e soprattutto diciamo che, come background, come esperienze passate, veniamo da quattro ambienti completamente diversi. E quali sono gli ambienti? Ma allora, diciamo che insomma, io porto il nome Bonzo perché ad esempio gli Zeppelin e tutta quella parte lì hanno deviato molto della mia carriera musicale. Mio fratello e anche Luca, insomma, sono... hanno avuto trascorsi del conservatorio. Riccardo mi ha fatto sentire cantanti che io personalmente non avrei ascoltato mai, ad esempio Morrissey, tanto per dire. Mica l'ultimo arrivato. No, esatto. Infatti, insomma, è chiaro che quando c'è il confronto è un arricchimento appunto per tutte queste cose, ed è anche ovviamente poi quando si parla di pezzi che sono come dei bambini che nascono, quindi ognuno ci tiene molto al proprio bambino, e allora poi dopo gli scontri sempre al servizio del pezzo, nel senso che tutto è come fine al pezzo, nessuno, grazie a Dio, ci troviamo in una situazione dove nessuno porta avanti delle cose personali, è solo per rendere al meglio il pezzo. Sì, gli individualismi non contano nulla. Quindi tant'è che poi i pezzi sono effettivamente depositati in quattro, perché dopo qualche tempo diventa difficile capire chi ha portato l'idea primigenia, i lavori, i cambiamenti, il parere, questo farai, che sono poi senza scendere nel dettaglio perché sono milioni i passaggi in cui... Comunque tendenzialmente sintetizzando c'è sempre un grandissimo lavoro di laboratorio, diciamo, cioè quando la canzone è ovvio che viene fuori magari per impulso di uno o per un testo di uno e una musica fortunatamente assimilabile di un altro, però poi il lavoro è quasi tutto di studio, di cesello, le canzoni arrivano alla release 3.20, tipo cose di questo tipo, e tranquillamente si continua a rielaborare il tutto fino a che non arrivi a un punto in cui non puoi né aggiungere né togliere, e quello è il momento di confrontarsi con Stefan, con il nostro produttore. Anche la campagna Permessi vi dà una mano per questo? Sicuramente, il posto bellissimo dove abbiamo lo studio, che è la casa di Sara, la nostra produttrice, la nostra editrice, è forse uno dei punti di ispirazione più grandi, perché c'è comunque sia silenzio, e questa è una cosa fondamentale. Sì. Anche se il vostro disco non è di silenzio in alcuni momenti, assolutamente. Lo colmiamo noi. Ecco, appunto. Cosa dici, Marco? Sentiamo un'altra traccia del disco? Cosa pensi? Sì. Va bene? Direi di sì, anche se magari sarebbe meglio dal vivo. Allora, facciamo dal vivo. No, non voglio. No, bene. Ci hanno accusato, ricordo un'altra puntata che ci accusarono di non far ascoltare live, ma... Vai dal vivo. Allora, facciamo... Okay. Si può fare una dedica? Ma certamente. È una ragazza che ci sta ascoltando. Certamente. Il nome non lo faccio, ma lei sa che sta parlando di lei. Puoi fare anche il nome, sai? No. Il nome non si fa. Ok. Alla canzone Pretty Girl, secondo singolo dell'album. That I look fine. People say I'm in my prime. No skin for this old life. No skin. People say that it's okay. Don't believe what people say. Shut up. I understand, but my baby got a plan. New skin for this old life. New skin. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Mi assumo tutte le responsabilità a quello che sto dicendo. Il fantasma benevoli Johnny Cash qua dondolava. Bellissimo questo pezzo. Molto, molto, una bella melodia, posso dire una melodia? Lo sento, certo. Decisamente bella, ben fatta, molto accattivante. E grande Johnny che ci guarda, che ci guarda dall'alto. Benissimo. Ok, dal vivo, adesso qui siamo in una dimensione acustica. Voi che avete girato, siete stati in Grecia, siete stati a Stoccolma, a microfono spento prima di iniziare il programma parlavate del pubblico svedese e in genere dei pubblici che sono esteri, che hanno un'altra dimensione per sentire una band. Dico una piccola cosa, su molti, la stragrande maggioranza dei locali svedesi che insomma abbiamo visto, c'è un piccolo adesivo all'ingresso con su scritto no cover band. Ecco, perfetto. Boh, questo già descrive, direi piuttosto bene, il tipo di spirito con cui la gente paga poco, 5 euro, sì. 10 euro, poi dipende. Insomma, dipende esattamente. Però paga per andare a sentire, ma sentire a vivere concerti di gruppi sconosciuti, emergenti, sentire musica nuova, sentire, e c'è una grandissima curiosità. Addirittura abbiamo suonato in un posto a Copenaghen dove c'erano dei volumi impressionanti, posto piuttosto piccolo, e la gente non è che scappava, si metteva i tappi nelle orecchie e stava lì davanti a sentirlo proprio col corpo, perché la pressione sonora era una cosa veramente che non, io insomma di volumi alti ne so qualcosa, ma così tanto non l'avevo mai sentito. E lì è gente curiosa di sentire roba nuova e appunto di viverla con tutto il corpo, addirittura si mette i tappi nelle orecchie per poterlo vivere in prima fila. Questo descrive almeno il pubblico che noi abbiamo trovato sia in Svezia che anche a Copenaghen. Copenaghen, Danimarca. Sì. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa. A noi non piace fare quelli che parlano male dell'Italia perché il pubblico perché insomma ci sono cose positive e cose negative. Qua il discorso però è più un discorso di analisi di una situazione, cioè se uno dice cosa facciamo stasera? C'è un concerto. Chi suona? In O'Keefe's. La reazione normale è e chi sono? No, dai, andiamo da un'altra parte. Mentre forse l'attitudine che abbiamo visto, l'approccio che abbiamo visto è stato: che cosa c'è stasera? C'è un concerto. Andiamo a sentirlo. E poi vabbè, poi magari la band ti fa schifo. Però questo è vero, eh. E poi è stranissimo perché invece quando uno è affermato, il pubblico italiano è calorosissimo, tanto che gli artisti grossi registrano tutti i DVD qui. No? E allora perché ci deve essere questo scollamento? Che finché non vieni consacrato dall'ufficialità non sei un cazzo di nessuno e poi diventi tutto d'un colpo diventi Dio in terra. Ecco, questo ci fa un po' arrabbiare. Ma anche perché quello che abbiamo visto è che non ci sono scuse, ci sono città piccole come Malmo, che è una città piccolissima, che nel quartiere dove noi avevamo, beh, piccolina dai, mi stanno prendendo in giro perché non è così quasi piccola, è una città 700.000 abitanti, mi sa di sì. Vabbè, comunque è una città piccolina. Però nello spazio di pochi isolati c'erano una quantità di locali live incredibile. In tutti i locali ogni sera tre band che suonano dal vivo e i locali sono pieni. C'è della gente a sentire queste band di signori nessuno che sono appena usciti da un grande. E non solo però, anche la cosa bella è che i medesimi locali facevano magari un grande artista internazionale e magari la sera dopo tranquillamente. E tre band sconosciute. Esattamente, sì, cioè sì, non c'è un distanze. Esattamente. C'è un'altra cultura, forse un altro modo di vedere le cose dalle nostre parti. Sì, forse è un'abitudine che è difficile da cacciare via, cioè quella che appunto se non è passato in TV non vale niente. È quello il discorso. Ecco, forse è quello, guarda, non lo so, però poi ci sono delle eccezioni, voglio dire, anche in Italia. sia a livello di media, perché radio, ma non perché siamo qui da voi, sì, ma insomma radio come la vostra che fanno questo tipo di trasmissioni esistono, per fortuna esistono anche i locali che fanno suonare dal vivo sempre, tutti i giorni a Roma. Roma è una bella scena, per esempio. A Roma sì, Roma ha queste possibilità. Ecco, Milano è un po' più impermeabile invece, almeno per noi. Non, a Milano non siamo ancora riusciti ad entrare nel discorso, riusciti a metterci in piedi, esatto, che più vicino parla Milano, si fa sì, presto, sarebbe anche più comodo come viaggio, però no, non era successo. Beh, succederà, sì, sì, no, no, noi non vogliamo, guarda, parlavamo di carattere, caratteraccio, e continuiamo a andare. E una cosa volevo chiederti, dal vivo come li fate sti pezzi, piuttosto sostenuti? Sì. Di solito io sono il sostenitore, che soprattutto quando appunto sei in una realtà che ti devono conoscere, il concerto ci devi mettere tutto quello che hai e farlo veramente cattivo. Chiaramente, insomma, nei limiti del buon gusto. Certo. Poi c'è anche una grande componente elettronica dal vivo, nel senso che noi abbiamo questi campionatori dal vivo proprio, non sono sequenze, è proprio tutto un approccio completamente diverso. E questo va a confluire ancora di più nella botta, diciamo, del concerto live. Il live deve essere uno schiaffone. Deve essere energico. Sì, a volte no, uno pensa alla New Wave come a un genere un po' freddo, un po' distaccato, e beh, alcuni esponenti effettivamente lo sono anche, mi è capitato di vedere gli Interpol, sono un concerto. Invece noi preferiamo un live molto più muscolare, più sudato, più sanguigno. Ecco, più sanguigno. Anche Marco preferisce un live più sudato, più sanguigno. No, ma in effetti anche ha citato gli Interpol, che ho visto anch'io dal vivo, effettivamente fanno una brutta impressione. No, a me piacciono, però vederli dal vivo sembrano che vogliono proprio mantenere le distanze. E quindi molto meglio vedere band che invece dal vivo, poi che stravolgono anche magari quello che è il disco. Anche perché tante volte, almeno adesso forse è cambiato, ma parliamo di 20 anche 30 anni fa, delle volte si conosceva prima il gruppo dal vivo e poi si andava a comprare il disco, certo. Quindi l'impatto adesso invece magari lasciamo stare, perché sono sempre i soliti discorsi internet scappa, che già non se ne viene più fuori, però effettivamente uno quando va a ascoltare un gruppo già lo conosce, già ha sentito, quindi magari addirittura arriviamo al paradosso che si trova dispiaciuto perché magari suonano diverso rispetto al disco. Invece credo che il bello di un gruppo sia proprio questo, cioè andare ad apprezzare un pezzo, ma capita tante volte di ascoltare un pezzo live e poi lo ascolti sul disco sembra un altro pezzo, e comunque io mi ricito sempre l'esempio di Beck. Uh-huh. Beck all'inizio era quasi un lo-fi, il primo album, però suonava dal vivo e faceva una cosa veramente devastante, era una cosa che uno non si credeva, se non lo vedeva non si credeva, quindi sicuramente un merito per una band, anche perché bisogna essere bravi e capaci a fare una cosa del genere. Sì, ma poi quello che abbiamo trovato noi è anche il fatto che, trovandosi a suonare in tante situazioni diverse, con tante risposte di pubblico diverse, con della strumentazione diversa, perché quando magari prendi un aereo non è che puoi portare i tuoi amplificatori, i tuoi effettini con cui sei abituato, quindi ti trovi veramente a dover riadattare il live ad una situazione, a doverlo vivere in maniera diversa ogni volta, per cui ogni volta viene diverso. Non parliamo poi delle volte dove non funziona niente, perché magari siamo finiti in un posto strano e dobbiamo farlo un po' alla vecchia, senza spie o cose così, e ci è capitato. Abbastanza. Sabato scorso l'ultima. Eravate in Italia? No, eravamo a Stoccolma. Per cui visto che non abbiamo... Pensavo a Malmo. E come reazione della gente cosa preferite? Perché io sono diventato vecchio e quando vado a vedere i concerti preferisco la calma della gente, no? Anche se c'è il suono, mi piace il suono forte. Voi preferite la gente che si scatena sotto il palco oppure la cosa vi è completamente indifferente? Che non siamo particolarmente schizzinosi, l'importante è che ci sia una reazione, ecco, questo di non trovarsi di fronte a una sala di zombie, ecco, di quello potrebbe essere un po' più imbarazzante, però accettiamo tanti tipi di reazione, anche perché c'è successo, un pubblico attentissimo ma immobile, e noi abbiamo dato un certo tipo di performance anche in base a questa risposta. Ci è successo di trovarsi davanti a un pubblico danzante in maniera cioè erano veramente scatenati, e anche lì abbiamo dato una, abbiamo fatto un altro concerto, perché cerchiamo anche di dare quello che ci sembra che la gente di fronte a noi ci stia chiedendo, insomma. E poi comunque tu dici mi piace il volume ma preferisco stare tranquillo, in realtà la tensione dell'ascolto la percepisci, cioè capisci se hai davanti della gente che non sta saltando perché non ha voglia di saltare ma ti sta ascoltando davvero, oppure se hai davanti uno che è ubriaco marcio e salta perché potrebbe esserci qualsiasi, potrebbe sì, avere anche i petardi in tasca. Il nostro concerto è una sorta di organismo, cioè anche noi cambiamo molto in base a quello che succede fuori, siamo molto recettivi. Siete dinamici, vi adattate tantissimo, un po' tantissimo, certo, anche le scelte dei brani ma le scelte dei brani però voi le fate prima oppure avete un flessibile e poi ve lo decidete al momento, sì, com'è? Esattamente, esattamente. Anche perché magari nella certa situazione non è il caso di fare un brano, nell'altra situazione invece uno che non avevamo messo in scaletta capiamo che ci cade a fagiolo proprio, quindi insomma, sì, ci, ci adeguiamo un po' alle diverse situazioni. È vivente situazioni. Sì. Abbiamo fatto due, facciamo anche tre, facciamo un altro pezzo live, okay, e poi presentiamo qualche pezzo dal disco. Sì. Però vi facciamo una sorpresa, perché questo brano che vi suoniamo non è nel disco. È un new entry assoluta. È diciamo un pezzo che non è stato inserito nell'album, è arrivato appena dopo, si intitola White Noise, ed è sempre rimasto inedito, diciamo, si trova anche su iTunes ma come inedito dal vivo, penso che sia dal registrato. Vivo, vivo. C'è solo dal vivo, non l'abbiamo mai registrato in studio. E lo proviamo per la prima volta in acustico. E anche vorrà dire che fra 30 anni, quando pubblicheranno di nuovo il CD, lo metteranno come esatto, brano. Special edition. Special edition. Don't expect. The pain is blinding when you don't see it coming. Shut their eyes, yeah. Radio Veneto Rock. Io non mi sono alzato perché non era possibile la mia... però è proprio da alzarsi, da muoversi, questo è un pezzo ritmato che fa muovere, bellissimo, un altro sistema, un altro flash, un'altra finestra della vostra musica praticamente. Sì, sì, un altro pezzo della band, del progetto band, certo, praticamente. Certo. Bello, molto bello, interessante, decisamente. Questo sarà nel prossimo futuro? Lo pescherete oppure lo lascerete sempre nel cassetto? Ma ha una sua vita dal vivo. Non credo, almeno non è nelle nostre intenzioni registrarlo. Ho capito, deve rimanere così. Ha trovato la sua dimensione e poi non si può mai dire. Certo. Però. Ma tendenzialmente cerchiamo di non ripescare dal passato, se dobbiamo scegliere dei pezzi per andare avanti, da mettere nel nuovo album, insomma, scegliamo dei pezzi che siano aggiornati col nostro sentire, col nostro umore. Sì, diciamo che White Noise ha già una storia, dal vivo è sempre, ci sono versioni diverse, la teniamo un po' come questo jolly segreto, no? Dal vivo rimane così. E poi effettivamente è un pezzo dal vivo, come dici tu, è un pezzo che dal vivo funziona abbastanza, nel senso che è un po' più lungo degli altri, però è abbastanza ritmato, ballabile, se vogliamo, quindi per ora è lì. Certo, facciamo un saluto a Gianluca Merlin di Radio RCS che ci sta ascoltando. Ciao Gianluca. Che si sta ascoltando proprio in questo momento. Benissimo, Marco, vi facciamo riposare un secondo, mettiamo su un pezzo dal disco, cosa dici? Per me va benissimo. Ok. Il numero 7. Infatti. Il numero 7. Stavolta lo so. The Trivial Captivity. Esatto, l'ho letto anch'io prima, però non ti avrei corretto. Rock Wave, l'onda del rock. Welcome to the Regency, the tomb of opportunity, the trivial captivity of vacuum and security. The tomb of opportunity, the trivial captivity of vacuum and security. Welcome to the Regency, the tomb of opportunity, the trivial captivity of vacuum and security. Più scura urgency, the dawn of opportunity, the trivial captivity of vacuum and security. Beh, allora siete, volevo ricordare intanto che siete sempre all'ascolto di Blu Radio Veneto e ricordo anche i numeri per chi volesse in qualche modo mettersi in contatto, il telefono 049 875 6423, invece se volete mandare un sms 346 23 20 033. Ogni tanto bisogna anche inquadrare l'ambiente. Esatto, poi diciamo una cosa come da prassi, dove si può trovare il vostro disco, l'etichetta, la distribuzione e tutto il resto. Vai, è anche il vostro sito chiaramente. Allora, diciamo che vabbè, come tutti di questi tempi abbiamo una pagina Facebook che è tenuta aggiornata e ovviamente ci sono tutte le novità. E il nostro disco lo si può trovare online, si può trovare su iTunes e su tutti i principali, diciamo, siti dove si può acquistare, quindi parlo anche di Amazon e cose così. E chiaramente per poter seguire tutte le novità e tutto quanto, fra Facebook e MySpace ci sono, diciamo, tutte le novità quando avvengono, insomma. E invece poi per completare il discorso sul disco, lo potete trovare anche nei negozi, è distribuito da Audioglobe, quindi se il negozio non ce l'avesse basta ordinarlo. Di recentissimo abbiamo lanciato il nostro sito, quindi non pagina MySpace né Facebook, che è nokeys.it, e approfittiamo anche per ringraziare tantissimo Sissa e Morgan, i nostri webmaster, che ci hanno, webmaster estremamente limitante, sì, insomma, ci hanno aiutato davvero. È il sito davvero bello, e lo posso dire perché non l'ho fatto io, quindi cioè, da fruitore è proprio bello. E dobbiamo ricordare una cosa: qualche mese fa è venuto a trovarci con molto onore Gerard dei Rockets, e la produzione grande, è vostra, grande, sì, è la vostra, è la produzione del disco di Gerard. Sì. Quindi abbiamo un grande orgoglio. È stata una bellissima collaborazione. Esattamente, con lui un mostro sacro, praticamente. Assolutamente. È una grande persona dal vivo. In studio è stato veramente bello. È stato bello, è stato un onore. Un saluto anche a Gerard e tutta, sì, la band. Anche Gerard. Benissimo. Noi di solito adesso facciamo la domanda, Marco lo sa, delle pistole, i famosi dischi su un'isola deserta. Ma giustamente abbiamo deciso, hanno deciso con molto piacere anche da parte nostra, di fare un tributo a una mitica band. Yes. Che quale sarà la band e quale sarà il tributo? Joy Division. Perfetto. Love Will Tear Us Apart. Tutto dal vivo, assolutamente. Bites are hard and ambitions are low and resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, we're taking different roads. The love will tear us apart again. Love will tear us apart. Cold. You turn the way on your side. Is my time in that flood? Have our feelings run dry? Did I still deserve the ill that we've kept through our lives? And love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart. We'll be right back. a taste in my mouth as desperation takes hold. Yet it's something so good you can't function more. And love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Strepitosa, Marco, cosa dici? Sì, vabbè, Love With a Razor Part, credo di, per quanto riguarda a casa mia la discografia, lo devo avere in almeno 20 o 30 dischi, CD, raccolte, singoli. La costante. Ma penso che tra Joy Division e New Order, non so, ci sono alcuni pezzi che ce l'ho veramente in tutti i dischi. Love With a Razor Part, tra l'altro un pezzo meraviglioso secondo me. Sì. Tra l'altro la parte è la versione di Ian Curtis, quella forse più... non so se definirla più allegra, mi pare un po' azzardata, però insomma più era la musica abbastanza divertente di Joy Division, perché all'epoca l'avevano inquadrato come una persona perennemente triste, ma in realtà ci sono dei pezzi che hanno fatto i Joy Division che sono veramente belli e non sono così alla Decadis, quindi non sono proprio, cioè, così... È vero, ma Disorder, cioè ce ne sono di sorprendenti, ecco, come anche come spunto melodico, insomma, non... Comunque quella versione che avete fatto voi è decisamente interessante, perché è abbastanza, si stacca un po' dall'originale, che è un po' quello che piace a me quando si deve fare delle cose, si devono fare cover, mi piace che vengano un po' adattate al gruppo che le rifà. Questo sicuramente è importante, grazie, quindi bene, è un pregio di chi fa una cover, sicuramente è un pregio. Grazie mille. Grazie mille. Davvero. Decisamente un'ottima versione assolutamente nostra. Benissimo, una cosa volevo chiedervi, sì, è stato... No, avete detto che è stato semplice andare a Stoccolma a registrare il disco. Ma l'idea che è partita, dove è partita l'idea di andare a Stoccolma all'inizio proprio? Ma allora, probabilmente all'inizio è partita dal fatto che questo produttore ci è stato fatto conoscere da mia moglie, che è svedese, nel senso che mi ha detto: ascolta questo CD che è bello. E quindi ecco, il germe di tutto è stato quello. Però poi abbiamo scoperto, come dicevamo prima, una realtà alla quale ci siamo sentiti molto affini, per cui, come spesso accade, l'inizio è stato casuale. E però dopo tutti i pezzi sono caduti al posto giusto. Quindi sono tutti stati fatti nel momento giusto. Esatto. E la registrazione quanto tempo è durata praticamente? Non poco, perché abbiamo diviso i momenti. E quindi abbiamo avuto, a parte una lunga fase di preproduzioni per focalizzare bene quello che volevamo fare, quindi mole eccessiva di brani, momento di uccisione dei brani meno interessanti che è sempre più difficile, e quindi diciamo che 6 mesi di preproduzione ci sono stati. Dopodiché è seguito il primo ingresso in studio, abbiamo fatto all'incirca 2 o 3 settimane di registrazioni intense. Tre settimane, sì. Dopodiché ci siamo imposti un periodo di stacco prima di procedere al mix, che è una cosa fondamentale per evitare di cadere in autoreferenzialismi dannosi, no? E quindi ci siamo puliti completamente le orecchie, abbiamo ripreso in mano il tutto a Stoccolma, appunto, quindi registrazioni in fase italiana, dopodiché ripreso in Stoccolma con integrazioni e mix finale. Quindi insomma è stata una genesi abbastanza lunghetta, diciamo. Guarda, è stato così lungo che ci siamo tutti fatti crescere dei baffi imperiali, sì, compreso il produttore svedese. Non li avete mica conservati, vero? Solo io. Sì, però ci sono delle foto, le mie poi sono imbarazzanti, sì. Sembrava un tricheco, però mia diciamo moglie ha quasi chiesto il divorzio. Questa è sempre una cosa che facciamo, all'inizio di ogni disco ci inventiamo qualcosa di veramente stupido da fare che dia in un certo senso la mappa del periodo che sta passando, e le cose per il prossimo disco sono veramente preoccupanti. Stiamo discutendo. Stiamo cercando il tema. Svariate idee. Qualcuno dice capelli, però... Io ho vista pensato la pelata, capelli. Io partirei molto svantaggiato. Tre pelati su quattro. Sì, esatto. Beh, ma per quello sarebbe interessante. Appunto. Beh, io conosco una persona che potrebbe indicarvi come farvi ricrescere i capelli. Sì. Una persona molto esperta che da molti anni la vediamo qua in Italia, una volta senza, una volta con. Potrebbe darvi una mano. Accettiamo consigli. Benissimo, sono le 23:42, abbiamo ancora 20 minuti, ma 20 minuti li passeremo chiaramente suonando. Cosa suoniamo adesso? Direi Dolore Dolcissimo. Ah, Dolore Dolcissimo è un pezzo molto bello. Sì. Esatto, uno degli l'ultimo brano in italiano che abbiamo scritto. Ecco, una cosa che voglio chiedere velocissimamente, sì. Qualche volta cantate in inglese con delle commistioni italiane. Sì, è vero, ed è una cosa che... non è stata decisa a priori, ma in fase di scrittura dei pezzi è venuta fuori così, abbastanza spontaneamente, tanto che nessun pezzo del prossimo disco ha questa caratteristica, ma perché appunto volercela inserire per forza sarebbe stata una forzatura. Per ora è venuta così e quindi, però sì. Se rinunciare alla vita e riviverla e poi farla finita, donne di plexiglass che pulsano di cuori sintetici, amori unici, colpevoli ma sempre più unici. Ho pagato con il cuore le certezze del mio amore, l'amore purissimo, l'errore grandissimo. Al mio petto nasce un fiore, al colore del mio cuore, è rosso purissimo. Dal mio amore, gli odi che uccidono il torpore, è tutto chiarissimo, dolore dolcissimo. Svegliano anche i cuori più deboli, un cielo pallido, sipario del martirio più facile, e ora colpiscimi un altro pugno, non mi cambia la vita, pieno di lividi, saprò cucire ogni ferita. Pagato con il cuore le certezze del mio amore, l'amore purissimo, l'errore grandissimo. Al mio petto nasce un fiore, al colore del mio cuore, è rosso purissimo, dolore dolcissimo. dolcissimo, crocifisso dal mio amore, chiodi che uccidono il torpore, è tutto chiarissimo, dolore dolcissimo. Radio. Non so se gli ascoltatori hanno notato, ma io l'ho notato, le telecamere probabilmente l'hanno notato, c'era stata una coesione totale in questo pezzo con voi, degli sguardi, qualche piccolo, tutto perfetto, vi siete proprio coesi, come si può dire, perfettamente, ottimo. Una cosa che molti hanno scritto, e penso che sia una cosa positiva, l'album è diviso in due parti, una prima parte un po' più cospicuamente mosso, nel senso positivo, una seconda parte in più onirica. E slow è lo spartiacque dell'onirico, secondo me, decisamente. Assolutamente sì. Sì, prima parlavamo delle di diversi pezzi della stessa anima. E come dicevano prima loro, mi diceva il gatto, abbiamo deciso nel disco di metterci in gioco molto profondamente e in maniera completa, per cui senza nascondere anche le parti più, più intime e anche più dolorose, perché se, e questa è una cosa di cui abbiamo parlato anche prima, se tu canti o se suoni qualcosa in cui non credi o che non ti riguarda, si capisce subito. E quindi ecco, la sincerità ha giocato un ruolo molto importante nella scelta, nella selezione dei brani, e quindi sono rientrati anche dei brani più intimi, più intimi. E a proposito del gatto, io ho visto che il gatto dava l'input a tutti voi tre, il gatto dava l'input a tutti voi tre, chiaramente. Io l'ho notato da assolutamente fuori dal discorso. Io ho uno strumento che è spesso ignorato, sottovalutato, però per quello che facciamo noi è assolutamente vitale, per cui in ogni situazione diciamo che io sono un po' il termometro. Dove vado io devono venire gli altri, perché sennò non funziona niente. Tant'è che nel prossimo disco non avremo il basso. Infatti. Perfetto. Ok, hanno deciso proprio di tagliamo la testa al toro, esatto. Assolutamente. Ecco. A proposito della testa al toro, pezzo che adesso io spero dal vivo fate, che è slow, secondo me. Yes. Pezzo che noi abbiamo utilizzato per un mese consecutivo. Grazie. E che abbiamo scritto sulla recensione che abbiamo fatto io e Alberto. Bellissima, ipnoticamente invitante, ipnoticamente vincente. Grazie mille. E quindi io l'ho sentita, noi abbiamo sentita così quando abbiamo fatto questa recensione. È un pezzo molto bello, molto significativo, e poi significativo perché posto al numero 6, proprio alla metà del disco, e secondo me è fondamentale. Io la vedo così. La segniamo adesso? Ok, yes. Perfetto. Change. as you like. Give me a hard time, but I know you liked it too. Exaggerate, that's what you do. Your nature is nothing you can change. Radio Veneto Rock. Ci siamo. Mi aveva trasportato per un mese questo pezzo, adesso mi trasporta ancora decisamente. Versione bellissima. Questo slow molto molto bella, molto posso dire accattivante, nel senso positivo del termine. Siamo quasi alla fine, Marco, sono le 23:57, 56 qualche secondo. Ricordiamo istituzionalmente il titolo del disco, dove si può trovare e se avete qualche data da fare adesso. Ci stiamo passando la palla, dillo tu. Per quanto riguarda il disco, si chiama The Regency, noi siamo i No Keys, tanto per dirle tutte, è distribuito da Audio Globe, si può trovare in qualunque negozio, ovviamente non dovessero avercelo è sufficiente ordinarlo, altrimenti attraverso i maggiori siti di vendita di musica digitale comunque si trova dappertutto. Per quanto riguarda le date, invece, i prossimi eventi, ne abbiamo uno domani sera al Club 59 a Verona. A Verona, benissimo. A Verona. E mentre andando un po' più avanti, avremo un weekend de fuego a Roma fra il 5 e... venerdì 3 suoniamo al Contestaccio. A Roma sempre? Sì, sì, a Roma, sì. E il 4 all'Angelo Mai. E sarà una serata particolare, speriamo particolarmente interessante, perché suoniamo noi, un altro gruppo che si chiama Madame Lingerie. È una serata new wave e il tutto è chiuso da un DJ set di una DJ della scena dark, DJ Chiaretta, per cui siamo ansiosi di fare questa serata. Sì, l'Angelo Mai è un progetto molto interessante che a Roma è stato sviluppato da musicisti molto validi e porta sempre avanti un discorso al di fuori delle solite mode, insomma, dei soliti generi. Senza dubbio. E comunque chi fosse in zona, domani appunto a Verona, cominceremo verso le 10:30 e insomma ci farebbe piacere che qualcuno che magari ha sentito la trasmissione stasera domani venisse. L'ingresso è gratuito, tra l'altro. Perfetto. Domani. Cosa dici, Marco? No, volevo solo ricordare che ho ricevuto prima una telefonata da un collega nostro da Modena, da Radio di Modena, che ci ringraziava per la puntata, vi ha fatto i complimenti. Grazie mille. Lo andiamo a trovare se ci invita. Ecco. È probabile che attorno a febbraio saremo dalle parti del modenese. È vero, suoniamo all'off di Modena al 19. Esatto. Credo che si sta febbraio. Ascoltando, sicuramente prenderà nota di questa data. Ok, allora finiamo con un pezzo live, ancora una volta, che fa parte dello stile di Rockwave, che è così. Pensavamo sì a The Let's, un brano appunto della parte seconda dell'album. Certamente, grazie a Marco Borgato che... Grazie a voi, ci mancherebbe altro. Lunedì prossimo ci sarà Giancarlo Onorato, un guru della musica new wave italiana degli anni 80. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Grazie Maurizio, Marco, grazie davvero per averci invitato. Grazie a voi. E a presto. Ok. Inside. life is short and time is still here.